proprio male gli occhi, già non ci vedo più. Provo a dormire, ho spento già, non prego neanche Dio. Cos'è laggiù? Sembra una luce blu. Non fa dormire quella luce. Mi alzo sul ginocchio, odio il negozio mio. Tiro le tende e chissà, forse è la volta buona. Cos'è pietà? C'è quella luce ancora. Non dà respiro, non è pace. È fuori o dentro me. Vedo sempre i tuoi occhi che mi stia nei pensieri. Certo è facile credere che solo la polizia. Come stai? E sorridi sempre mia, tra i capelli scelti e il vento che nasconde il tuo viso. Oh, è solo la polizia. Cos'è laggiù? Sembra una luce blu. Non fa dormire quella luce. Rimetto insieme i cocci delle mie fantasie. Provo a voltarmi adesso, sì, che quella luce fioca. Oh Dio, lo so, voglio guardarla ancora. Mi fa soffrire, mi piace, è fuori ma brucia in me. Sento ancora le tue mani, la pazzia dei tuoi anni, l'aria fragile e semplice che invade la notte mia. Guardo giù, dietro i vetri, nella via, solo cani, cade grandine, e cenere sonno, io mai. Voglio stare al buio, voglio stare solo anche a digiuno, che in questa galera sia la mia e non entri nessuno. E restare qui, inchiodato al muro in un recinto.